Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti da Frey e Olga. Ben ritrovati con Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio e con questo nuovo anno di programmazioni in compagnia della redazione di Balloon e del Caso S. Storie, anniversari, rassegna stampa, consigli di lettura e chiacchiere con storiche e storici sulle ricerche che stanno portando avanti e sui libri che hanno pubblicato. Inauguriamo il 2018 proprio partendo da un'intervista con uno storico, Elia Rosati, del Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Milano, che è già intervenuto sulle frequenze di Radio Città Fugico per commentare, da esperto in neofascismo, l'inchiesta sui finanziamenti all'estrema destra italiana pubblicata in novembre dall'Espresso. Con Elia Rosati parleremo oggi del libro di cui è coautore insieme ad Aldo Giannulli, storico piuttosto noto a livello mediatico in qua come esperto di strategia della tensione. Purtroppo si è parlato molto anche di lui per delle sue relazioni con il Movimento 5 Stelle. Comunque, Elia Rosati e Aldo Giannulli hanno pubblicato un libro molto interessante che vi consigliamo di andare a recuperare, che è Storia di Ordine Nuovo, edito nel 2017 da Mimesis all'interno della collana Passato Prossimo. Il libro, come ci racconterà a breve Elia Rosati, è un'interessante e documentata ricerca su Ordine Nuovo, l'organizzazione neofascista che si riuniva sotto il simbolo della sciabipenne. Guidato da Pino Rauti, una delle figure chiave dell'estrema destra italiana, Ordine Nuovo fu un'organizzazione sovversiva che agì in una dimensione non solo nazionale ma anche europea, dalla metà degli anni 50 fino allo scioglimento per decreto nel 1973. Intrecciando la sua storia con la strategia della tensione. Centro Studi, gruppo elitario di militanti pronti all'azione, corrente dell'MSI, strumento dei servizi e attore della strategia della tensione. Ordine Nuovo è stato tutto questo e nel libro di Giannulli e Rosati emerge la complessità di questa organizzazione che è stata forse fra quella che maggiormente ha influenzato la destra italiana. Accompagniamo questa puntata facendo un piccolo esperimento. Ci rivolgiamo con la mente agli anni 70 raccontando una storia di violenza ma anche di crimini, diciamo, per cui l'ascolto più azzeccato ci è sembrato quello dei Calibro 35, gruppo che riprende e riarrangia le sonorità dei film polizieschi o poliziotteschi, diciamo, italiani dell'epoca. Ci ascoltiamo il loro primo album del 2009, l'omonimo Calibro 35. We'll be right back. Bene, eccoci, benvenuto a Elia Rosati e partiamo con la chiacchierata su Storia di Ordine Nuovo, libro che ha scritto e curato insieme ad Aldo Giannulli, libro edito da Mimesis nel 2017. E Elia, che cos'è stato Ordine Nuovo e che ruolo ha giocato nell'estrema destra italiana degli anni 70? Ti pongo questa domanda anche in relazione a uno degli elementi più originali del libro, che è la dimensione internazionale dell'azione di Ordine Nuovo, che si è mosso fra organizzazioni internazionali anticomuniste, la famosa Internazionale Nera, ma anche stati e servizi segreti come Stati Uniti, Spagna, Grecia e Portogallo. Allora, Ordine Nuovo è stata la più importante organizzazione neonazista, perché questa è un po' la sua caratura ideologica, fragista, presente in Europa. È nata all'interno del Movimento Sociale Italiano, che è stato il più importante partito neofascista europeo, l'erede della Repubblica, l'erede di alcuni repubblichini non sconfitti, diciamo, dalla fine della guerra, e si è subito organizzato come un sodalizio che prevedeva un nucleo molto ristretto, estremamente fanatico, ideologizzato, che si è formato immediatamente dopo la guerra e ha avuto già un suo rodaggio all'interno di un'organizzazione terroristica che erano i Fasci di Azione Rivoluzionaria, che poi venne poi bloccata nel 1951, e tra il 54 e il 56 uscì dal Movimento Sociale con una storica scissione capitanata da quello che era il personaggio più carismatico e più noto all'interno, che era Pino Rauti, e si organizzò come primo gruppo extraparlamentare propriamente detto della storia repubblicana, tenendo insieme questa dimensione di studio culturale. Ordine Nuovo nasce come centro studio Ordine Nuovo, una dimensione estremamente militante, ideologizzata dal punto di vista del neonazismo. L'ispirazione era chiaramente quella definita anche nella sua rivista principale, che era appunto Ordine Nuovo, legata all'immagine dell'SS di Himmler, l'SS del Terzo Reich, in realtà anche una organizzazione operativa, nel senso che diventa la più importante organizzazione terroristica, che sarà poi responsabile alla fine degli anni 60, 69 a Piazza Fontana, della strage di Piazza Fontana, e fino al 74 la strage di Piazza della Loggia a Brescia, e anche di altre piccole azioni sempre legate a quella che è stata la strategia della tensione europea. Noi spesso siamo abituati a pensare che la strategia della tensione, che è una peculiarità, diciamo, della storia italiana, che la strategia della tensione sia soltanto un fenomeno italiano che abbia caratterizzato la nostra storia. Generalmente si fa partire la strategia della tensione dal 65, cioè dal convegno di Parco dei Principi, che è stata un'iniziativa anche degli ordinovisti, un convegno in cui parteciparono militari, giornalisti, ordinovisti, politici e anche membri della NATO, fino a sostanzialmente la strage di Brescia. Lo stesso Ordine Nuovo viene messo fuori legge in quel periodo, anche se poi alcune sue schegge continueranno ad essere attive. Ma si tratta in realtà di un disegno europeo che coinvolgeva tantissimi gruppi all'interno di quella che era una organizzazione anticomunista funzionale al disegno complessivo dell'Alleanza Atlantica e al contenimento dell'avanzata delle sinistre nei vari paesi, e quindi all'interno dello schema della Guerra Fredda, che era un complesso sistema, anche un gioco di spie, un gioco di fazioni, un gioco anche di depistaggi, che ha coinvolto anche altre centrali, non soltanto l'Italia. Ordine Nuovo erano un po' le star di questo mondo, ma un ruolo importantissimo, per esempio, lo ricoprì in Portogallo la Ginterpress, che era una finta agenzia di stampa che fabbricava delle veline, delle informazioni, diremmo noi oggi delle fake news, per coprire, depistare, spostare l'attenzione delle varie operazioni che venivano svolte nei vari paesi dell'Europa occidentale, così come Ordine Nuovo era stato appunto il modello per quelle che erano state alcune internazionali nere. Nella vicenda europea ci sono 5 internazionali nere. Ordine Nuovo addirittura creerà il nuovo ordine europeo, che è una delle più longeve e delle più importanti. Così come, insomma, di Ordine Nuovo viene apprezzato sia l'organizzazione interna. Ordine Nuovo arriverà ad avere 10.000 militanti nel suo periodo d'oro alla fine degli anni 60, Parzialmente alcuni suoi dirigenti rientreranno nel movimento sociale italiano, anche se a destra in Italia è sempre sopravvissuto il fenomeno della doppia tessera, cioè non era c'era una completa confine tra l'essere un ordinovista o come l'essere un militante di avanguardia nazionale e essere un tesserato del movimento sociale italiano. Lo stesso Pino Rauti, come Giulio Macerattini, rientrarono nel movimento sociale pochi giorni prima della strage di Piazza Fontana. Anche questo è un passaggio oscuro, così come delle stragi vennero incolpati sostanzialmente soprattutto la cellula veneta, quella più nota di Franco Freda e Giovanni Ventura, in particolare per Piazza Fontana, nonostante un andamento giudiziario molto complicato. Allora. Quindi di nuovo un po' questo insieme di cose, ed è un pezzetto della storia italiana che si inserisce, dicevamo, complessivamente all'interno del disegno anticomunista della NATO e della Guerra Fredda più in generale. Elia, a proposito di questo discorso sull'ordine nuovo europeo, è veramente interessante, magari ci torniamo dopo, ma sarebbe bello dedicarci davvero un'intera puntata. Io ti riporto un attimo sul libro, e per chi non l'avesse letto, diciamo che il libro è diviso in due parti. La prima è una ricostruzione della storia del movimento di cui si è occupato Aldo Giannulli, e poi c'è la tua parte che è dedicata sostanzialmente alla cultura politica di Ordine Nuovo. Mi pare di capire che ci siano stati degli elementi, no, che hanno caratterizzato fortemente Ordine Nuovo come cultura, tipo per esempio la figura di Evola, molto forte, o anche il forte legame con la cultura. Infatti già citavi prima l'imposizione e la cultura del Terzo Reich, forse più del fascismo italiano. Poi c'è lo spiritualismo, l'investimento della figura dell'elite militante, e questa, come dicevi tu, questa vocazione europea che si riconosce, si percepisce. Puoi dirci un po' più nel dettaglio qual è questa cultura politica dell'organizzazione Ordine Nuovo? Allora, Ordine Nuovo rappresenta dal punto di vista teorico, ideologico, militante e poi operativo dal punto di vista realmente paramilitare il connubio perfetto che ci fu in Europa, nel senso che Ordine Nuovo aveva a disposizione prima di tutto dei militanti molto preparati, oltre che fanatici, che avevano anche per esempio avuto la possibilità di studiare, erano giornalisti, erano avvocati, cioè invece per esempio Avanguardia Nazionale sarà un'organizzazione molto più proletaria come quadri, quindi anche molto più rozza. Invece Ordine Nuovo aveva anche a disposizione il grande maestro nero europeo, che è Julius Evola, che addirittura Pino Rauti e i suoi sodali, già al tempo dei fasci di Azione Rivoluzionaria, quando loro erano dei giovani dirigenti del movimento, delle organizzazioni di base giovanili del movimento sociale, fanno rientrare in Italia. Evola è stato un filosofo legato da un amore odio per il fascismo italiano, anche se non lo rinnego mai, ma fu soprattutto un uomo del Terzo Reich in Italia. E questo comunque è uno dei più importanti filosofi europei per quanto riguarda lo schieramento conservatore della cosiddetta rivoluzione conservatrice e del tradizionalismo, che sostanzialmente indottrinò con la sua visione principale, che era quella della tradizione. Evola pensava che il mondo moderno fosse un qualcosa che avviava la civiltà complessivamente al Kali Yuga, cioè al momento più oscuro. Evola è un pensatore anche spiritualista, cioè crede in una ciclicità della storia. Appunto, Evola dice che c'è un Kali Yuga che arriva, un ciclo in cui si toccherà il fondo, determinato da il mondo moderno, che nasce sostanzialmente con la grande rottura della tradizione, che è l'uguaglianza portata avanti dalla Rivoluzione Francese, dal cattolicesimo in parte prima, ma soprattutto la Rivoluzione Francese, poi la democrazia rappresentativa, fino a, ovviamente, a lambire il complotto giudaico-massonico e ovviamente il socialismo. Quindi è questa rottura dell'ordine gerarchico tradizionale, che è il perno del pensiero di Evola, che plasma questi militanti di Ordine Nuovo, che si sentono dei soldati della tradizione. Ed è una teoria che si adattava benissimo ai neofascisti e neonazisti europei, perché fa parte della cultura della destra proprio l'essere orgogliosamente sconfitti. questi giovani repubblichini si sentivano, come un titolo famosissimo di un'opera di Evola, uomini tra le rovine, cioè uomini che riuscivano a ergersi in questa età di decadenza, a ritornare a essere dei, quasi dei monaci guerrieri della tradizione e a riprendere quello che era stata una battaglia ancestrale che addirittura Evola faceva risalire all'antichità, ai miti teutonici, all'impero, all'imperium medievale, che erano dei concetti appunto cardine della filosofia di Evola, e quindi sostanzialmente creava dei guerrieri spirituali sul modello appunto dell'SS, che estremamente fanatici, preparati e spregiudicati, che in realtà saranno il nervo di Ordine Nuovo, in una visione legionaria, che appunto è molto più vicina al nazismo che non al fascismo italiano, nonostante questi fossero tutti dei giovani repubblichini. Parliamo di una storia anche di giovani militanti, non stiamo parlando di attempati militanti neofascisti. Scusa Lia, guarda, proprio visto che un po' si sta riducendo il tempo a nostra disposizione, volevo farti un'ultima domanda, cioè partendo proprio da queste ultime cose che, di cui ci hai parlato. Cioè, sembrerebbe proprio che questi elementi, più di altri, siano quelli che facciano parte della cultura politica, o anche magari anche della cultura organizzativa del nuovo fascismo europeo. Cioè, ti faccio questa domanda anche in relazione a un'interessante rubrica che hai curato sul sito di Radio Popolare di Milano e dell'AMPI, Viaggio nell'estrema destra europea, cioè quindi un argomento che tu conosci piuttosto bene. Cioè, che traccia c'è secondo te di Ordine Nuovo nel nuovo fascismo europeo, nel nuovo fascismo, nel nuovo nazismo europeo? In che maniera si è sviluppata questa eredità, se c'è? Allora, è un, diciamo che è complesso rispondere in che senso. Cioè, la prospettiva storica, il mondo di Ordine Nuovo, dal punto di vista militante, pratico, storico, si è definitivamente concluso con la fine della strategia della tensione da metà degli anni 70. Tra il 73 e il 74 cadono le ultime dittature fasciste in Europa, crolla l'anticomunismo dell'era Nixon, quindi si riarticola completamente quella che è la storia della guerra fredda. Quindi in quel momento appunto Ordine Nuovo non è un caso, viene messo fuori legge, diciamo che non serve più. Quindi quella è una storia che si chiude. Però rappresenta per i neofascisti italiani prima di tutto un passato mitico. Secondo, gli ordinovisti sono rimasti poi attivi. Pino Rauti diventa segretario del Movimento Sociale Italiano sconvincendo Fini nel 1990. Continuerà la sua attività politica fino alla morte, che è avvenuta pochi anni fa. Moltissimi ordinovisti hanno fatto parte poi delle organizzazioni terroristiche di fine anni 70, oppure sono diventati, rientrando il Movimento Sociale, sono diventati dei dirigenti. Giulio Maceratini, che è uno dei più noti, è stato un senatore della Repubblica nel primo governo Berlusconi ed è stato anche vicepresidente del Senato. Quindi parliamo di un passato che poi è rimasto nella cultura politica di molti membri del Movimento Sociale, che poi sono diventati Alleanza Nazionale, cioè gli evoliani sono rimasti in questo contesto. Ma l'idea di Ordine Nuovo come gruppo ristretto, legionario, che mette insieme per esempio cultura e militanza, questo è l'esempio per eccellenza nella storia del neofascismo italiano ed è uno degli esempi più virtuosi dopo il 45 per l'estrema destra europea. Evola è vendutissimo, è letto ovunque. L'idea del mondo moderno in qualche maniera è stata una delle basi per i neofascisti, i neonazisti contemporanei, per interpretare la globalizzazione, quello che lo chiamano il mondialismo, che è una riedizione del complotto egualitarista giudaico-massonico, in cui ovviamente questo non era nelle possibilità di Ordine Nuovo, nel mondo che viveva Ordine Nuovo, anche se in Ordine Nuovo l'antisemitismo e il razzismo regna sovrano. Ma ovviamente la visione con la quale si legge la realtà globalizzata di oggi, le migrazioni, le crisi, il sistema bancario, è un qualcosa ancora abbastanza figlio dell'impostazione evoliana. E Ordine Nuovo rappresenta anche, in ultima istanza, anche il gruppo organizzato per eccellenza. Casa Pound oggi vorrebbe assomigliare a Ordine Nuovo, fa delle riviste, una scuola quadri, un'organizzazione con un nucleo legionario piramidale, si richiama continuamente, anche se sono poco evoliani, a una rivisitazione del fascismo alla luce, insomma, di una storia più ampia. Ora, di nuovo, quindi, rappresenta un po' il modello perfetto del militante neofascista o neonazista che si voglia, anche perché ormai questi confini sono in parte saltati e in parte Ordine Nuovo li ha fatti anche saltare, ha rotto, Evola rompe questo differenziazione storica fra fascismo italiano e nazismo tedesco, è tutto all'interno del progetto del nuovo ordine europeo, che non è un caso era una delle internazionali di cui faceva parte Ordine Nuovo, e questo ha fortemente influenzato anche la destra di oggi, i militanti della destra di oggi. Quindi rappresenta anche un passato mitico in cui non ci sono delle filiazioni dirette, ma è un modello inarrivabile a cui molte organizzazioni tendono, e soprattutto, ultimissima, è il primo gruppo, uno dei primi gruppi in Italia, uno dei primissimi gruppi in Europa ad avere la prospettiva europea, cioè a rompere lo schema dei nazionalismi dei vari paesi che aveva caratterizzato anche i fascismi europei, che sono tanti fra le due guerre, e dare una prospettiva europea che poi diventerà tuttora una prospettiva che hanno i movimenti neofascisti e della destra radicale europea. Bene, ringraziamo ancora Elia Rosati, con cui siamo stati al telefono, con cui abbiamo chiacchierato a proposito del libro di cui è coautore insieme ad Aldo Giannulli, Storia di Ordine Nuovo, edito da Mimesis nel 2017 all'interno della collana Passato Prossimo, che abbiamo avuto per l'appunto in linea prima della canzone dei Calibro 35 dal loro omonimo album del 2009 Calibro 35. E chiudiamo la puntata. Vi suggeriamo molto calorosamente di andare a spulciare il viaggio nell'estrema destra europea a cui abbiamo fatto riferimento, che è questo lungo reportage che ha curato Elia Rosati sul sito dell'ANPI e di Radio Popolare di Milano. E se lo cercate come viaggio all'estrema destra europea Elia Rosati, trovate tutti i suoi articoli che toccano tutti i movimenti e i partiti di estrema destra di area europea. Infine vi suggeriamo un paio di appuntamenti. Il primo è un incontro di poesia dalla Biblioteca delle Donne, potete scoprire di più su bibliotecadelledonne.it, e l'altro è una mostra all'Istituto Parri in via Sant'Isaia fino al 30 gennaio. Si chiama Staffette Partigiane ed è la fine, diciamo, di un laboratorio per bambini che hanno preso spunto dalle storie di alcune partigiane bolognesi e imolesi. Esatto, raccontandole a fumetti. Bene, inoltre vi suggeriamo di rimanere un po' più collegati alla nostra pagina Facebook, che si chiama adesso Caso S Vallun On Air. Benissimo, in cui troverete anche qualche spunto di lettura nell'arco della settimana. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Olga.